Il cielo è freddo e vasto, la pianura coperta di neve. I resti di un grosso muro, tre gradini e una porta. Colui che vuoi uccidere, non lo raggiungerai, perché quando lo avrai trovato ti sarai trasformato in lui. Tu sarai lui. life awaits us.